passano, uno dietro l'altro in fila, quello che sta dietro le calcola quello che sta prima. Qualche stronzo mi sta a fianco ogni tanto quando mi fa un sorriso in faccia, fa altrettanto quando piango e manco. Le avessi fatto solo qualche cazzo d'altro per poter meritarlo. Mi stai sul cazzo se non ti ho fatto un cazzo, perché cazzo vuoi fottermi soltanto? Ho fatto tanto per non fare uno sbaglio. Tu fai il bastardo, di meno dici basta Fabio. Sono buono come il pane, ma se non mi tratti bene divento cattivo e inizio a farti male. Ti do anima e cuore, è il mio nemico sulla traccia, ma amico per chi vuole. Voglio solo dire quello che fa male.